sacrificio di una donna sola sul marciapiede non ha mai importato, più dei regali rotocalchi rosa, più degli incassi record di uno stadio, l'insabbiamento lento dei misteri, non vale più le quote dei sistemi, più delle ruote di fortuna, delle missioni sulla luna. Tutti quei bimbi affamati sono intralcio al mento per chi ha appetito, e quei randaggi incartonati vanno sottolineati da chiunque ha un dito, le bocche aperte di chi ha visto sere illuminarsi giorno e poi bruciare. Di chi